Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. C'è un destino terribile che ha accomunato alcuni artisti e che è quasi un brutto sogno, cioè quello di raggiungere il successo dopo anni di tentativi e morire improvvisamente. E non sono pochi, il caso forse più famoso è quello delle morti di Buddy Holly e Ritchie Valens nell'incidente aereo del 59, ne avevamo parlato, vi ricordate? In loro onore Don McLean aveva scritto la canzone American Pie, in cui definisce quel giorno come The Day the Music Died, cioè il giorno in cui la musica morì, la canzone del 71. Probabilmente se l'avesse scritta un po' più tardi avrebbe dedicato la sua canzone anche a un altro artista morto anche lui per un incidente aereo nel 73. E io voglio parlarvi proprio di questo artista morto, quasi sconosciuto, è diventato famoso nei mesi successivi e poi è rimasto meritatamente famoso fino ai giorni nostri. Insomma, la puntata di oggi è la puntata di Jim Croce. Era uno di quegli uomini che quando lo guardavi negli occhi ti accorgevi che erano vissuti. C'era dolore nelle sue canzoni, erano buffe, calde e belle proprio perché piene della vita che lui aveva vissuto. Quella che avete sentito è la voce di un altro grande, Arlo Guthrie, che, come direbbe, l'apice della sua carriera a Woodstock. Era figlio del famoso Woody Guthrie e grande amico di Jim Croce, insomma lo conosceva bene. Conosceva questo volto da italiano di buon cuore, con gli occhi scuri vicini tra loro, con un nasone un po' da maschera della commedia dell'arte. Lui nasce in South Philadelphia, che è una zona di Philadelphia abitata principalmente da immigrati irlandesi e italiani. Si chiama James Joseph Croce. I genitori, appunto, sono italiani di seconda generazione e incarnano un po' questa immagine, diciamo, stereotipata dell'italiano che va in America, amore, mandolino, amano cantare, far festa. I filmini di quegli anni lo dimostrano. Vediamo scene di gente che balla, che ride per la casa, insomma Jim assimila in fretta quello spirito. A casa si ascolta molta musica, soprattutto country, ragtime, e si capisce subito che lui è molto portato. A 5 anni impara a suonare alla fisarmonica la canzone Lady of Spain, che era molto famosa in quel periodo, era cantata da Bing Crosby ma anche da Eddie Fisher. E Jim inizia a suonare la chitarra da autodidatta, e se qualcuno gli chiede di farlo lui non si fa pregare. Grazie alle influenze familiari e anche a un carattere solare espansivo, lui è un vero e proprio intrattenitore, e forse questa è una delle sue principali qualità, lo dice anche la moglie Ingrid. Cantava per far piacere alla gente, cantava anche perché questo gli dava una gioia incredibile. Suonava 24 ore al giorno, poi andava a dormire e quando si svegliava suonava di nuovo. Viveva per questo. In realtà all'inizio Jim Croce non pensa di fare della musica la sua vita, si iscrive al college, si laurea in psicologia, però proprio all'università comincia a suonare un po' più seriamente nella banda dell'università e poi con la sua chitarra va in giro per i caffè dei campus. Ho passato 10, 11 anni suonando nei bar, alle feste, per le confraternite, facendo rock and roll, country, western, bluegrass e qualsiasi altro tipo di musica possa venire in mente. E sono anni in cui lui si fa le ossa, anche se naturalmente non guadagna nulla o quasi, però grazie alla musica lui può vivere la sua prima esperienza un po' particolare, perché viene mandato in tour all'estero con la band della scuola, grazie, diciamo, a quei programmi di scambi culturali tra le università. Va in Africa, in Medio Oriente, va anche in Jugoslavia. Fu un bel periodo. Mangiavamo quello che la gente mangiava, dormivamo nella foresta e suonavamo le nostre canzoni. Naturalmente nessuno parlava inglese laggiù, ma se stai davvero trasmettendo qualcosa mentre canti, la gente capisce. si torna negli Stati Uniti, è il 1963, quindi lui ha praticamente 20 anni e per raggranellare dei soldi fa qualsiasi lavoro, operaio per una impresa di costruzioni, insegnante di chitarra, docente in una scuola media, però la musica comincia a attirarlo irresistibilmente. In quel periodo il mio unico tentativo più simile a un lavoro d'ufficio è stato collaborare con la stazione radio What a Philadelphia. Scrivevo jingle per gli annunci di una stazione di R&B. Andavo spesso anche a Germantown Avenue, cercando di propormi nei jazz bar. Ero l'unico bianco a entrare in alcuni di quei bar e spesso pensavano che fossi o un poliziotto o il tipo della nettezza urbana. Eh sì, perché c'è anche un razzismo o comunque delle prevenzioni al contrario, soprattutto in quegli anni e in quelle zone degli Stati Uniti. Sono gli anni 60, peraltro anni pieni di fermento artistico, anni difficili politicamente, c'è la guerra in Vietnam e quindi in quel periodo i giovani sono costretti a partire per una guerra nella quale non credono e poi ce ne saranno insomma di conseguenze su questo conflitto palesemente sbagliato. Jim, per evitare di partire per il fronte, si arruola nella Guardia Nazionale, quindi lui può anche continuare a fare la sua vita, che vuol dire andare in giro a suonare. Ed è proprio a una festa dove deve intrattenere gli invitati che lui incontra quella che diventerà la compagna della sua vita. È una ragazza, si chiama Ingrid Jacobson, è il vero e proprio colpo di fulmine. Lui non ha ancora 20 anni, lei ne ha appena 16 e lui per tutta la sua vita insomma non sarà mai la rock star dedita al sesso, ai tradimenti, è un monogamo a grandi linee e quindi da allora i due non si lasceranno più. I fell madly in love. I couldn't even imagine. Mi innamorai pazzamente di lui. Non potevo neanche immaginare com'era stata la mia vita prima di quel momento in cui lui entrò in quella stanza con la sua chitarra. Voglio dire, quando incontri qualcuno di cui ti innamori e hai 16 anni, sei nel periodo in cui sono i tuoi ormoni che gestiscono la tua vita e tutto diventa improvvisamente molto emozionante. And everything's emotional. Che belle quelle storie d'amore, però in genere non durano. E invece in questo caso dura. Nasce una coppia, non solo nella vita. Lei suona, canta, insomma, cominciano a esibirsi insieme. Il duo si chiama semplicemente Ingrid e Jim. Fanno cover di pezzi famosi come tutti. Poi piano piano Jim comincia a scrivere i suoi pezzi. Ed è solo l'inizio. Il falco e il gabbiano. Così Jim e Ingrid, croce questa romantica coppia di musicisti, comincia a suonare, vanno in giro insieme per gli Stati Uniti cercando di guadagnare quello che può bastare per vivere, però non è facile neanche questo. It was the 60s. Erano gli anni 60, era il periodo ideale per sentirsi noi due contro il resto del mondo, ma andando avanti ci rendemmo conto che in realtà eravamo noi due contro ogni genere di difficoltà. La vita dura di due ragazzi che hanno tanti sogni. Sono però gli anni in cui la musica comincia a dilagare nella vita di tutti, come mai era successo prima. Beatles, i Rolling Stones e poi tutte le band formate da ragazzi. E molte di queste band diventano delle star mondiali. Insomma, per la prima volta un giovane può pensare seriamente di dedicarsi alla musica per trasformare la sua passione in un lavoro vero. Arriva Bob Dylan, arriva Joan Baez, arrivano i Beach Boys e grazie al successo della musica di quegli anni diventa concreta o quantomeno praticabile la possibilità di diventare un artista conosciuto e di guadagnarsi da vivere scrivendo canzoni. Ovviamente cominciavano a provarci tutti, quindi non era facile, però non era impossibile. E magari i genitori non ti appoggiano, insomma questa è una storia che potrei raccontare anch'io, genitori che rimangono legati all'idea del posto fisso. E la famiglia di Jim, per esempio, era gente onesta che aveva fatto enormi sacrifici per far studiare il figlio all'università e non potevano entrare nell'ordine di idee che la carriera ideale per il loro figlio fosse la musica folk. E forse proprio per cercare di stroncare sul nascere questo sogno, i signori Croce regalano al figlio, in occasione del suo matrimonio con Ingrid, $500 con la precisa condizione di utilizzarli tutti per incidere un disco. E la loro speranza più o meno nascosta che l'album non abbia successo e che Jim si tolga questo sfizio, facendola finita però con l'idea di fare il cantante, no? Però ogni copia di Faces, questo è il titolo del primo album autoprodotto, viene venduta e Jim trasforma quei $500 di investimento in un guadagno di $2,500. Insomma, lo prende come un segno per andare avanti. Il piano dei genitori è fallito. E allora loro decidono di tentare la fortuna a New York, siamo nel 69, e incidono un nuovo disco, stavolta assieme, e lo promuovono andando in giro a suonare per la East Coast. In 2 anni i due percorrono più di 500.000 chilometri, però i risultati non sono quelli sperati. Lui firma dei contratti che lo costringono a cedere la maggior parte dei suoi profitti ai produttori. Quello lo abbiamo fatto tutti, caro Jim, non è che è capitato solo a te. E dopo qualche tempo, insomma, è evidente che ogni sforzo del cantante contribuisce a far diventare ricchi quelli attorno al cantante, e anche qui potrei dire la mia a lungo sul tema. He didn't spend time. Forse non trascorreva molto tempo a cercare di capire come funzionasse il mercato musicale, e alla fine questo atteggiamento ci mise in un sacco di guai. Naturalmente New York è troppo cara e i due vanno a vivere in campagna, anche se in una zona vicina, una piccola cittadina dove lui può recarsi a suonare nei locali. Però ormai il lavoro di musicista non è sufficiente a tirare avanti, anche perché adesso la moglie è incinta. Sono entrato e uscito nel mondo della musica un po' di volte, perché fare musica non sempre significa farsi una vita. Non si guadagna più di tanto nei bar. Ho ancora il ricordo di quelle serate trascorse a suonare per soli $25 a notte, senza che nessuno ti ascolti. E se fosse adesso ci sarebbe anche un gestore del locale che ti dice: sì, ma tu quanta gente porti? Comunque, Jim va a lavorare in un'azienda dei trasporti, guida un camion, poi fa il carpentiere, insomma, lavori duri, quelli che in America si chiamano blue collar jobs, cioè le tute blu. Però quando torna a casa c'è sempre Ingrid che lo aspetta in una casa piena di amici. Insomma, la fattoria dei due, la piccola casetta, diventa un polo di attrazione per tanti altri ragazzi che sperano un giorno di diventare famosi o che stanno conoscendo il primo barlume di successo. Parliamo di gente come Randy Newman, Bonnie Raitt, James Taylor e Arlo Guthrie. Insomma, è una fattoria dove sarebbe stato bello mettere un registratore acceso perennemente. È un periodo della mia vita un po' confuso. Non so se sia perché facevamo cose che non avremmo dovuto fare. Eravamo giovani, eravamo liberi, e solo questo importava, il resto non aveva senso. E non ci importava niente se la gente voleva fare soldi o non voleva. Noi ci stavamo divertendo un mondo, ce la godevamo un sacco, e non perché guidavamo belle auto. Era come se... era come danzare attraverso la vita. We were dancing through life. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Jim Croce, un musicista fantastico, ci ha regalato delle perle ormai un po' misconosciute, però chi ha avuto la fortuna di ascoltare queste canzoni ce le ha ben impresse nella mente. Operator, I Got a Name, Lover's Cross, insomma, canzoni con un filo conduttore, un filo di pacata malinconia. Lui è stato un cantautore gentile, lontano dallo star system, dall'esagerazione, dal rock duro, una vocazione musicale cresciuta con affetto tra quattro mura, tra i caffè di periferia. Non è un canto di protesta, non c'è un impegno politico come c'era in Bob Dylan, non c'è la foga psichedelica di Jimi Hendrix, lo slancio fisico di Springsteen. Canzoni che parlano di piccole cose, di gesti quotidiani, come non so, chiamare il centralino per cercare un vecchio amore, oppure come molti americani i pensieri liberi in un viaggio lungo l'autostrada, insomma le sue storie, la sua vita intima è quello che lui racconta meglio, è una colonna sonora che la maggior parte della gente può adattare alla sua esistenza. C'è qualcosa di grande nell'avvicinarsi alle verità universali con la semplicità della chitarra acustica. La si può portare ovunque e mi aiuta a entrare in contatto con il pubblico di qualsiasi età e con qualsiasi percorso di vita. Siamo nel 70, lui ha 27 anni, i Croce abitano in una piccola casa di campagna nella Pennsylvania, Ingrid aspetta un bambino. Jim capisce che è il momento giusto, bisogna dare una svolta più seria alla sua professione di musicista. Cominciano a girare bene le cose quando arriva un suo amico, un amico dei tempi dell'università, si chiama Joe Salviulo, che gli presenta un chitarrista di talento, Maury Mulaisen. Lui, Jim Croce, è un bravo chitarrista, conosce a memoria migliaia di canzoni, però il talento di Maury aggiunge uno stile particolare alla sua produzione. Cominciano a lavorare a un disco da registrare a New York, hanno tanti brani a disposizione e intanto c'è la responsabilità del figlio in arrivo che lo mette un po' sotto pressione e lui in 10 giorni scrive altre canzoni, tra cui le sue più famose, Operator, Time in a Bottle, quest'ultima che peraltro è dedicata al figlio, diventa uno dei suoi maggiori successi, una canzone sul senso del tempo che passa e sul timore di essere mortali. L'album da cui sono tratte queste canzoni si chiama You Don't Mess Around With Jim, un po' come dire con Jim non si scherza, è quasi una dichiarazione di intenti, la volontà di imprimere un nuovo corso alla sua vita. E infatti le cose cambiano, nasce Adrian James nel settembre del 71, Jim parte in tour per cercare di approfittare del fermento che c'è attorno al suo disco che è uscito nell'aprile del 72, inizia dei concerti e va in giro dappertutto, in America ma anche in Europa, a Londra, Parigi, Amsterdam, Dublino, 300 concerti in un anno, è veramente un massacro, però è un massacro che contribuisce a farlo conoscere in giro, non solo al pubblico ma anche agli addetti ai lavori, cominciano a considerarlo un musicista da tener d'occhio. Siamo arrivati all'inizio del 73 e Jim incide il suo secondo album Life and Times, che contiene il brano Bad Bad Leroy Brown, che è una canzone che peraltro comincia ad avere un buon successo, entra anche in classifica e gli unici grandi assenti in questo quadro, che è un quadro positivo, sono i soldi. Ma guarda, anche lì ci sono dei manager che ti ciulano i soldi. I problemi iniziano quando Jim torna a casa per una breve vacanza. Ingrid è stata vedova bianca per quasi un anno, isolata in campagna con un neonato a cui badare, con l'ansia di soldi che non bastano mai. Insomma, è una bomba orologeria pronta per esplodere. I soldi continuavano a mancare e io dissi: Jim, non capisco cosa succede. Tu lavori come un matto, ma non abbiamo più soldi di quanti ne avessimo 2 anni fa, quando cantavamo ai concerti durante l'università. E lui mi rispose: lo so, ma non ne voglio parlare ora. Andrà tutto bene. Così quella sera andai a letto e piansi tutta la notte. Ero sconvolta. Lui mi mancava tanto, ma c'erano tantissime cose di cui non potevamo parlare perché venivo fermata appena chiedevo qualcosa. Così lui scese al piano di sotto e prese la chitarra. E come faceva sempre, iniziò a suonare e scrisse I have to say I love you in a song. Like he always did, pick up a guitar and wrote I'll have to say I love you in a song. Insomma, Jim capisce che Ingrid non può, o quantomeno non vuole, rimanere sola nella fattoria. Decidono di cambiare vita, vanno a vivere in California nell'estate del 73. Il clima è migliore per il bambino, il mondo musicale è ricco, è vivace, acquistano una piccola casa con un anticipo sui i guadagni futuri, però Jim si convince che se vuole salvare il suo matrimonio deve rallentare il ritmo. Intanto è in sala di registrazione per il suo terzo album, I Got a Name, ci sono degli altri concerti da fare, ma la sua intenzione è quella di prendersi una pausa appena finita la tournée. Ne parleranno assieme durante una lunga passeggiata serale prima della sua partenza per l'ultimo giro di concerti. Jim ha 30 anni, però è stanco, è già pieno di rughe intorno agli occhi, dimostra molto più della sua età, nonostante quei baffi un po' alla Frank Zappa e il suo piglio da musicista disincantato. He was ready to get out of the business. He hated it so much. Era pronto a uscire dal business. Lo odiava. Odiava andare in tour e tutta la falsità che faceva parte del business. Le bugie, la finzione, tutto quello che gli era stato promesso negli anni, il denaro che avrebbe guadagnato e che tutto sarebbe andato bene. How he was going to make money and how it was all going to be okay. Il giorno dopo Jim Croce parte, però non dimentica le promesse fatte alla moglie e dalla trasferta le scrive una lunga lettera piena di speranza per il futuro. Il tour prosegue. La sera del 20 settembre 1973 Jim canta alla Università Northwestern in Louisiana. Finiscono presto, vengono a sapere che c'è la possibilità di anticipare la partenza grazie a un piccolo aereo. Jim e Maury ne approfittano sulla pista, li aspetta il pilota che è un uomo con molta esperienza, però durante il decollo il piccolo aereo non riesce a prendere quota, un'ala va a sbattere contro l'unico albero presente alla fine della pista di rollaggio e l'aereo ricade pesantemente per terra, si disintegra. I cinque passeggeri, Jim Croce, il suo compagno e amico Maury Mulhaisen, il suo manager e altre due persone, oltre al pilota, muoiono sul colpo. L'ipotesi che viene fatta è che il pilota abbia avuto un malore durante il decollo. Jim Croce aveva solo 30 anni, una moglie, un figlio di 2 anni, il suo sogno che si stava avverando e che si avvererà solo dopo la sua morte. L'uscita del terzo album, I Got a Name, avviene qualche mese dopo, forse grazie anche all'impulso emotivo, inevitabile, succede sempre così, all'impulso della tragedia, ma anche perché la canzone che dà il titolo all'album è bellissima, il brano arriva subito nelle prime posizioni della top 10 americana. Jim è famosissimo, ma è troppo tardi. Una settimana dopo il disastro aereo, Ingrid riceverà l'ultima lettera di Jim, quella che lui aveva imbucato il giorno della sua morte. Nella lettera ci sono scritte queste parole: cara Ing, so che non sono stato molto gentile con te ultimamente, ma quando tornerò sarà tutto diverso. Saremo finalmente insieme, Ing, te lo prometto, mi concentrerò di più sulla mia salute. Diventerò un eremita, prenderò un master, scriverò racconti, script per i film e chi lo sa, potrei perfino mettermi a prendere il sole. Dai un bacio al mio ometto e digli che papà lo ama. Ricordati, sono i primi 60 anni che contano e io ne ho ancora 30 davanti. Ti amo, Jim. Immaginate l'emozione di una donna che riceve una lettera così da un marito che non rivedrà mai più. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno volato in alto. Ahimè, ci sono anche storie di ali spezzate proprio nel momento in cui il volo si faceva alto, nobile e interessante. La vita offre migliaia di sfaccettature. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre storie su cui volete puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei social, sui Facebook, sui Twitter, su quelli della trasmissione, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.